Rassegna Stampa Europa. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli e buon anno. È il nostro primo appuntamento dell'anno nuovo con la Rassegna Stampa Europea e cominciamo da uno dei temi che sicuramente ci accompagnerà anche per il 2016 e speriamo con più notizie costruttive e meno fatti di cronaca dolorosi, ed è naturalmente quello dell'immigrazione. La Süddeutsche Zeitung, uno dei principali quotidiani tedeschi, ha spiegato nei giorni scorsi che la CSU, che è uno dei partiti che formano la grosse coalizione tedesca e la coalizione di governo guidata da Angela Merkel, spinge per una legge che preveda l'obbligo di integrazione da parte dei profughi cui sarà riconosciuto l'asilo politico in Germania. È una questione che potrebbe poi magari avere dei riflessi anche sulle decisioni degli altri paesi. La Germania è stata sicuramente nella seconda metà del 2015 all'avanguardia nel promuovere politiche di immigrazione diverse dal dei semplici respingimenti o magari non respingimenti ma poi comunque non integrazione. Adesso avete letto forse nei giorni scorsi si è proposto anche un obbligo di istruzione scolastica per tutti i profughi, appunto, che entrino con una qualche forma legale, quindi o asilo politico o anche che vengano accolti per ragioni economiche. Comunque di questa proposta si parlerà in questo vertice della CSU, a cui dovrebbe partecipare anche il Premier Cameron. Anche in Inghilterra naturalmente il tema dell'integrazione degli immigrati e delle quote di immigrati è caldissimo e tra l'altro continuerà a essere per Cameron anche un tema della sua agenda politica, perché nel Regno Unito, come in tantissimi altri paesi, ci sono movimenti o partiti politici populisti o di estrema destra che in vari modi si oppongono alle politiche di integrazione e di accoglienza degli immigrati. A proposito di quote di migranti, di immigrati, la Sächsische Zeitung, un altro giornale tedesco, ha fatto dei numeri. Pensate che in Germania nel 2015, a dispetto di tutte le quote europee che ne avrebbero anche permessi meno, o ne avrebbero indicati meno, nel 2015 la Germania ha accolto 1,1 milioni di migranti, un numero record che è 5 volte superiore a quello dell'anno precedente, del 2014. Il mese più denso di arrivi è stato novembre, con 206.000 richieste di asilo, 181.000 in ottobre, 164.000 in settembre e 125.000 a dicembre. Come vi dicevo, nella seconda parte dell'anno la Germania è stata veramente protagonista su questi temi, anche perché, lo ricorderete, la cancelliera Merkel a un certo punto ha detto: noi ne accoglieremo di più, specie per quanto riguarda i profughi siriani, anche più di quello che l'Unione Europea ci ha chiesto. A proposito invece di un altro tema, che è quello dei partiti politici, che però abbiamo sfiorato, ci sono tanti cambiamenti in questo momento in atto in Europa. Abbiamo visto le elezioni politiche in Spagna con un governo e una maggioranza parlamentare ancora molto incerta, abbiamo visto le elezioni amministrative in Francia con l'esito che sappiamo, il Front National, partito appunto di possiamo dirlo tranquillamente di estrema destra, con posizioni molto forti sull'immigrazione, è risultato il primo partito di Francia, non si è aggiudicato la guida di nessuna regione perché al secondo turno ci sono stati giochi di coalizione, ma resta il primo partito di Francia. Quindi un grande cambiamento anche nella struttura dei partiti e della nascita di movimenti come Podemos in Spagna o il Movimento 5 Stelle in Italia. E allora la Frankfurter Allgemeine Zeitung conferma che anche in Germania c'è un crollo di fiducia, se vogliamo, nei partiti. Da che cosa si vede? Dal fatto che nel 2015 sono diminuiti i finanziamenti di imprese, associazioni industriali e partiti politici. La somma delle donazioni imprenditoriali sottoposte a obbligo di notifica, cioè quelle superiori ai 50.000 euro, hanno raggiunto la cifra di 1,12 milioni. Il partito più amato dagli imprenditori resta la CDU di Angela Merkel, che ha incassato 600.000 euro, subito dopo i liberali dell'FDP, che nonostante, pensate, non siano rappresentati nel Bundestag, il Parlamento tedesco, hanno ricevuto 550.000 euro. Ma torniamo al tema dell'immigrazione, ma passiamo a un altro paese, la Francia. Le Figaro ha scritto che l'85% dei francesi, fra cui una larghissima maggioranza di simpatizzanti socialisti, quindi non come magari si potrebbe sospettare a partiti di destra o estrema destra, ha approvato la revoca della cittadinanza per le persone con doppia nazionalità che sono nate in Francia ma che vengono condannate per terrorismo. Questo è sicuramente un altro tema che ha portato anche molti consensi al Front National. tra l'altro infatti in questo sondaggio la percentuale di persone che approvano questa misura sale al 96%, perché la Francia ha questo problema, cioè immigrati già di seconda generazione con nazionalità francese che magari hanno mantenuto anche quella originaria, che poi si scoprono, vengono accusati di atti di terrorismo o magari appunto si scoprono essere veri e propri terroristi. A proposito, abbiamo detto Movimento 5 Stelle, partiti, movimenti, cambiamenti negli scenari politici dei vari paesi, Financial Times ha pubblicato, ne hanno dato conto giovedì anche molti giornali italiani, un articolo sul Movimento 5 Stelle, definendolo un partito politico che ha raggiunto la maggiore età. In questo lungo articolo dedicato ai cosiddetti grillini, che era tra l'altro pubblicato sulla seconda pagina del quotidiano britannico con un richiamo in prima, si legge: quando il Movimento 5 Stelle esplose nella politica italiana nel 2009 durante la crisi economica, che lo ricordiamo era iniziata appena un anno prima con il crack di Lehman Brothers negli Stati Uniti, era caratterizzato da una protesta senza compromessi e dalla burlesca sardonica figura del suo leader, il comico Beppe Grillo. Ma il Movimento 5 Stelle sta cercando di cambiare volto rispetto a quello di uno dei più eccentrici e addirittura clowneschi partiti politici europei. L'obiettivo che la trasformazione mira a raggiungere sembrava una fantasia appena un anno fa: governare il paese e sfidare il governo di centrosinistra del primo ministro Matteo Renzi. Ora questo obiettivo non sembra poi più così lontano e, secondo Financial Times, e non è il primo giornale a scriverlo, il leader più accreditato a sostituire, diciamo, Beppe Grillo è Luigi Di Maio. Restiamo un attimo su Financial Times per un'altra questione che sarà sicuramente uno dei temi caldi economici del 2016, ed è quello della richiesta da parte della Cina di concedere appunto alla Cina lo status di economia di mercato. Gli Stati Uniti si sono opposti, hanno mandato delle proteste formali all'Unione Europea, ne ha dato conto anche con grande spazio il Sole 24 Ore nei giorni prima di Capodanno. Ora appunto Financial Times scrive: vedremo nei primi giorni del 2016 quando e se la Commissione Europea affronterà questo tema. A proposito di temi che la Commissione Europea e in generale le istituzioni europee dovranno affrontare nel 2016, vi segnalo da voxeurope.eu, sapete il sito che consulto sempre perché fa quest'opera meritoria di monitoraggio della stampa non solo europea su temi europei, e l'articolo di apertura di questi giorni è di Thierry Vessol, che è uno storico ed economista francese, e illustrato da una vignetta di Patrick Chapat, che invece è un disegnatore svizzero di origini libanesi, e che vede davanti al nuovo, uno dei palazzi di Bruxelles, due funzionari che presumibilmente si fanno gli auguri. Sullo sfondo c'è il cartello Buone Feste e uno dei due dice all'altro: al prossimo anno horribilis, annus horribilis, che sapete è l'espressione latina per appunto indicare un anno particolarmente sfortunato. E Thierry Vessol riassume tutto quello che è successo, e in effetti non è un bilancio positivo, perché ci sono stati tantissimi eventi negativi. Forse possiamo partire, come fa lui in realtà, da quello che speriamo sia davvero un buon inizio costruttivo, cioè il successo di COP21, la conferenza sul clima che si è tenuta a Parigi in dicembre, che Radio 24 ha seguito molto da vicino, e si è conclusa con un accordo. Sappiamo che il problema è che poi è far rispettare questo accordo, che dovrebbe consentire di ridurre il riscaldamento globale di 1,5 gradi alla fine del secolo. Ma spiega Thierry Vessol, l'altra grande questione che ha occupato il 2015 e che, come abbiamo detto, occuperà anche il 2016, è da una parte l'immigrazione e dall'altra il terrorismo islamico. Anche in questo caso non si tratta di questioni nuove, ci ricorda Thierry Vessol, ma ci sono nuovi fronti e anche queste nuove strategie di attacco diretto alle grandi città. Sapete anche quanti allarmi c'erano stati per il Capodanno. Concludo con l'elenco che ha fatto Vox Europe degli articoli più letti del 2015 sul sito, molti tra l'altro più o meno, magari qualcuno li ricorderà perché li abbiamo citati anche noi, per esempio quello del boom delle pistole low cost, un articolo pubblicato su un quotidiano olandese, perché anche in Olanda c'è naturalmente un problema di immigrazione ma anche di sicurezza, e poi molte delle mappe che pubblica Vox Europe che sono interessantissime, per esempio quella sulle persone al rischio di povertà in Europa, quella sull'atteggiamento dei paesi dell'Unione Europea nei confronti dell'immigrazione e poi ancora quella del rompicapo dei rifugiati visto da una delle tante frontiere che è Malta. E poi sempre su Vox Europe, se volete, potete anche vedere invece l'elenco dei 10 articoli più condivisi del 2015 e in testa ci sono di nuovo queste mappe che sono molto chiare, molto semplici, le infografiche magistrali che davvero in una sola occhiata vi danno l'idea, fotografano, disegnano un problema o magari anche una soluzione. Ancora un buon anno da Giulia Crivelli, ci sentiamo più tardi per la rassegna stampa dei quotidiani italiani. Rassegna stampa Europa. In collaborazione con Euronet Plus.